Sabato rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Bentornati su Mala Radio, anche sta continuando il discorso della Palestina, il bombardamento senza sosta sulla Palestina. A Gaza. Non a Gaza e soprattutto notizie di questi giorni, il Papa ha dichiarato di non voler più fare da mediatore tra Israele e Palestina, e Biden è sempre più sulla non si sa che posizione prende il presidente degli Stati Uniti, e in Italia la stampa decide che va bene la presenza di due stati, Palestina e israeliano, però la Palestina non deve essere comandata da una dittatura. Sì, fa quasi sorridere talmente la menzogna è grande che ci raccontano i media, che come dicono anche le voci delle prese registrate durante il presidio che c'è stato giovedì 13 maggio, se non sbaglio, in Piazza Duomo. In quell'occasione c'erano molti giovani, studentesse, studenti, anche insomma gente di tutte le età, ma soprattutto studenti e studentesse che appunto manifestavano per vari motivi. Abbiamo deciso di raccogliere alcune voci che adesso andremo a sentire, no? Esatto. Ciao, siamo qua al presidio oggi in solidarietà con la Palestina. Volevo sapere perché siete qua, cosa vi ha mosso a venire qui, insomma, oggi. Ciao, io sono una studentessa universitaria, sono al primo anno, e soprattutto vedendo un po' come girano le informazioni in questo periodo, soprattutto dai media e dai telegiornali, vedo come in realtà la questione palestinese non venga raccontata nel modo più corretto, ma anzi venga presentata un po' come una guerra, un conflitto, quando invece è semplicemente un'occupazione da parte dell'entità sionista in Palestina. E quindi è dovere di noi giovani trasmettere le informazioni nel modo più corretto possibile, utilizzando anche i social media e, se possibile, scendendo anche in piazza. Allora, io ho l'età più o meno di 20 anni, ho 20 anni, e sono una studentessa universitaria, e sono qua oggi perché è veramente troppo, cioè la Palestina ha sopportato veramente per troppi anni e non si può più continuare con tutte queste atrocità. Ci sono bambini che ogni giorno muoiono così senza motivo e vengono chiamati terroristi, cioè ci sono genitori che perdono figli ogni giorno ed è una cosa che non si può più sopportare ed è, va avanti da più di 100 anni, sta cosa, e non è veramente più sopportabile. E ultimamente ha raggiunto il culmine, perché non è possibile che nel mese sacro che è il Ramadan, delle preghiere, della pace, della tranquillità, dei fedeli che vogliono semplicemente legare con Dio in una moschea, vengano attaccati in questo modo. Non è giusto che la gente venga uccisa semplicemente perché ha una religione diversa o perché comunque ha origini diverse. Non è giusto che la gente, nel mese in cui più dovrebbe trovare la pace, vive una guerra, e più che vivere una guerra viene sterminata, perché non è tanto una guerra, perché se fosse stata guerra i palestinesi avrebbero avuto comunque delle armi, qualcosa con cui reagire, invece loro non hanno nulla, hanno soltanto Dio, ed è l'unica cosa che volevano avvicinarsi di più durante lui, cioè durante il Ramadan volevano appunto avvicinarsi a lui, ma neanche questo hanno lasciato fare. Quindi veramente è disumano quello che sta succedendo, ed è per questo che siamo oggi qui, appunto per cercare un minimo di far sentire la nostra voce, per almeno cercare comunque di far svegliare l'umanità sull'atrocità che sta facendo Israele e cercare di fermare un po' quello che fanno, almeno in questo periodo. E allora, noi siamo studentesse, tutte quante studentesse universitarie. Io studio economia. Io studio economia, cioè sono laureata in economia. Tu anche sei studentessa? Sì, studentessa, anch'io di economia. Siamo qui per sostenere la Palestina perché è in atto un genocidio, bisogna chiamare le cose con il proprio nome, non è un conflitto ma è un genocidio, è una pulizia etnica messa in atto dal popolo di Israele, e siamo qui soprattutto per diffondere consapevolezza tra le persone, dato che in questo paese purtroppo, come in tantissimi altri dell'Occidente, non c'è una comunicazione su media, telegiornali, in qualsiasi mezzo di comunicazione non viene raccontata la verità così com'è, e quindi sentiamo il dovere di dover raccontare la storia, cioè quello che sta succedendo da anni ormai. Siamo qui per cercare di dare voce a un popolo che voce non ne ha, qui la voce viene soffocata e il silenzio mediatico è veramente qualcosa di terribile, e soprattutto come appunto diceva lei, la distorsione dei fatti, perché quando sono iniziati questi ultimi fatti, è iniziato con un attacco proprio terroristico da parte di Israele, ha assediato una moschea in cui c'erano dei civili che stavano pregando, quindi un paese che un esercito oddio raga, mi sto perdendo, sono troppo emozionata, scusate. Sì, è una giornata importante questa. Comunque il fatto è che sostanzialmente media, telegiornali, tutto il mondo occidentale non solo non racconta la verità, ma racconta una verità distorta, quindi racconta una verità che non esiste, dando atto ad una disinformazione di base, perché anche giornalisti famosi insomma, raccontano una storia che non è quella vera. Quindi questo non è un problema solo per la questione palestinese, perché se la disinformazione parte per esempio dalla Palestina può andare per qualsiasi altra cosa. Noi paghiamo per avere delle informazioni, e se le informazioni sono distorte come facciamo? Vorrei sottolineare che non è una questione solo politica ma una questione umana, è una crisi umanitaria, quindi rimanere zitti. Cioè venire qua a questa manifestazione, diffondere quel che possiamo nelle storie di Instagram, tramite Twitter e ogni social media possibile, è il minimo che possiamo fare, perché abbiamo visto che non possiamo più contare sui media tradizionali. Possiamo contare, abbiamo visto l'impatto che i social hanno avuto soprattutto durante l'ultimo anno con movimenti di Black Lives Matter, quindi il minimo che possiamo fare è venire qua e usare la nostra voce e diffondere il più possibile. Ok, grazie. Faccio un'ultima domanda. Ho visto su una espressione che c'è scritto che il governo italiano complice di tutto quello che sta succedendo in Palestina, vabbè. Dal 1948, esatto. Cosa ne pensate voi di questo strisciolo? Pensiamo che sia vero, perché non si tratta solo dello Stato italiano, ma di moltissimi altri Stati, come ho già detto, occidentali, che sono complici, nel senso che ormai Israele, sostengono Israele dal punto di vista economico, perché hanno interessi economici, politici, commerciali con Israele, e non potrebbero mai far passare Israele dalla parte del torto e stare dalla parte della Palestina, da anni. Esatto, sì, non è tanto... Cioè, l'essere complice è stare anche solamente zitti, non solo condannare per esempio gli attentati che si dicono palestinesi. È una questione proprio di principio. L'Italia ha dei valori e noi come cittadini italiani sappiamo quali sono, però il governo li rispetta sempre. Lasciamo la domanda. Grazie. E come facciamo a seguire quelle informazioni che dite, che fate girare voi? Dove si trovano? No, allora, ci sono come Al Jazeera, sì, ma comunque diversi canali internazionali, cioè informazioni internazionali. Di seguire Muna Kurdi con la K, Muna.Kurdi, lei vive proprio nel quartiere di Sheikh Jarrah e ogni giorno condivide decine di storie su quello che succede, su come la differenza su come vengono trattati i vicini israeliani che hanno occupato le case di famiglie palestinesi e come vengono trattati loro semplicemente quando manifestano in modo pacifico, cantando e ballando. Guarda, basta vedere le sue storie per farsi un'idea, per farsi una semplice idea del fatto che Israele in questo caso sta d'accordo. Esatto, costruendo proprio le persone palestinesi sono proprio sono il fulcro principale che fanno vedere i fatti come sono e li potete vedere direttamente con i vostri occhi e fare dei giudizi poi di conseguenza. صباح الخير يا بلاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيف عندم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفية البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما راح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلبس لبس هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتطلع عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني نشوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين دخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلقتوني بدلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية fingers up to the Zionists cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah, the kufir is Arab, yeah, it's M1 in solidarity, feel me, Shaja, dude, from the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Ciao a tutte le persone, anche tu sei qua a manifestazione in solidarietà con la Palestina. Quello che sta succedendo è, come dire, fa male al cuore, ecco, vedere le persone morire sotto le bombe, quando non possono, ad esempio nella striscia di Gaza non hanno la possibilità di avere l'acqua o l'elettricità, e invece attorno c'hanno carri armati e gente che, uno stato illegittimo che li bombarda, e niente, siamo qua a manifestare contro questa situazione qua. Grazie, e poi c'era uno striscione, quello striscione che dice Italia complice dei massacri sionisti, no? Cosa ne pensi? Non è del tutto corretto secondo me, perché certo a livello politico bisogna capire un attimo com'è, come dire, la situazione. Certo non si possono prendere delle posizioni di forza, sappiamo benissimo, e quindi non sono totalmente d'accordo, ecco. Io in particolare, perché dalle informazioni sui social non avevo capito molto bene la situazione o come noi giovani la stessimo affrontando, quindi sapevo che c'erano delle testimonianze di giovani, allora volevo vedere il loro punto di vista. Questo era un po', poi per stare un po' più a contatto, più vicino, per capire un po' attraverso le testimonianze, non è come attraverso i giornali o attraverso i media, è vero, i media fanno tanto, per carità, però avevo bisogno proprio di sentire più il contatto. Sono sempre stata dell'idea che farsi sentire ok, ma che il cambiamento attraverso le manifestazioni non è che, ecco, adesso domani è tutto bello, la Palestina fiorisce, però comunque è un appoggio più emotivo, ecco, più per far capire che non siamo tutti degli ignoranti come vogliono renderci. E anche se non credo nel cambiamento attraverso la manifestazione, credo comunque in noi giovani, soprattutto, anche se tutti pessimisti, credo che io farò proprio un culo così, cioè farò bene, no, tutti, ah, proprio farò un cambiamento piccolo, minimo, nel mio piccolo, ma credo che lo farò, e credo che tutti noi giovani qua lo faremo, e quindi la manifestazione è, rappresenta anche questo per me, ecco, un livello di crescita, una crescita personale, vedere la visione un po' più da vicino. Non posso andare in Israele, ma posso andare in Duomo, quindi. Ciao, se vuoi raccontarci perché anche tu sei qua a questa grossa manifestazione Presidio in solidarietà con la Palestina oggi. Oggi siamo qui noi, soprattutto arabi, anche italiani, cioè mi piace vedere che ci sono anche italiani che si interessano e che li interessano la problema palestinese, e siamo qui per sostenere i nostri fratelli palestinesi, e stiamo cercando a far vedere agli Stati europei di intervenire, soprattutto per finire questo, diciamo, questo lago di sangue, perché si vede che ci sono anche dei bambini adesso che muoiono, che soffrono, che crescono senza i parenti, di una guerra, diciamo, quasi finita. Cioè, noi non capiamo perché sta succedendo tutto questo, soprattutto che le guerre sono finite da tanti anni, e siamo qui per chiedere anche agli Stati europei di cercare un modo per risolvere questo problema, di mettere un muro davanti a tutte queste cose, tutte queste violenze. Una fine, dici? Sì, esatto. Riguardo, prima c'era uno striscione grande con scritto che l'Italia è complice dei crimini sionisti, volevo sapere cosa ne pensavi a riguardo. L'Italia è uno stato dove soprattutto sostiene l'umanità, quindi per noi è assurdo che l'Italia a questo punto non sta intervenendo, non stanno parlando di niente, però gli italiani, cioè, perché si nota che il popolo è molto vicino a noi, che gli interessa il problema palestinese, quindi speriamo che lo Stato italiano riesca a intervenire come fa con tutti i problemi dell'Africa, dell'Asia. Abbiamo visto l'Italia quando ha sostenuto quel ragazzo egiziano studente che è stato arrestato in Egitto, quindi l'Italia sostiene tutte le cause di umanità, quindi vogliamo vedere questo che si impegni in questo, dici. Esatto. Grazie, tu sei uno studente? Sì. Delle superiori o dell'università? Superiori. Grazie mille, grazie. Ciao. Palestine's been occupied for decades, but a home for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow, and nurture the symbol of peace. The olive tree is guaranteed that our people could eat. Living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain? Take a look at the people's faces. Imagine being kicked out of the only house you ever known. We're praying for our souls while they're praying on our homes. It's not easy to put this into words. Looking at my baby sister, is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same. Denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land. Won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life. Because my only mission is to make people listen. This one's for Shashara, hoping it can make a difference. Cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted and forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed. They can never return, so that's where I am today. Getting calls from cousins to see if I am alive. This year is not fireworks that are light in the sky. We're trying to celebrate and eat and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made. Palestine. E questo era MC Abdul, Palestinian in Freestyle, un video che è diventato virale, direi, nell'ultima settimana di questo rapper dodicenne di Gaza. E la canzone che avete sentito prima è Akufi Arabia di M1 con Shadia Mansour. E sempre sull'occupazione della Palestina, il massacro del popolo palestinese, oltre ai presidi, le voci che abbiamo raccolto venivano proprio da un presidio che c'è stato a Milano, ma di presidi ce ne sono stati molti in varie città. Sempre su questa questione c'è stata anche una forte azione di solidarietà da parte dei portuali di due città, Napoli e Livorno, e i lavoratori portuali, nello specifico per la città di Livorno i lavoratori dell'USB e per Napoli i lavoratori del Sicobas, hanno scritto dei comunicati dove spiegano, insomma, perché sono contrari al fatto che dai porti dei lavori non passino le navi che caricano le armi che vanno poi ad essere utilizzate per massacrare il popolo palestinese, dove dicono che non vogliono le loro mani sporche di sangue. Insomma, potete trovare questi comunicati che ci sembravano importanti proprio per la forte presa di posizione sui canali ufficiali dei sindacati. We'll be right back. eccoci qua a Mala Radio. 3 giorni fa è stato aperto un nuovo spazio in università e dal collettivo Ecologia Politica. E infatti, mentre nell'ultimo periodo tutto quanto apriva, le università sono rimaste a lungo tempo chiuse. E anche quando c'è stata la riapertura sono emerse tante criticità. Sia dall'assenza degli spazi per la socialità, luoghi per incontrarsi, per chiacchierare, per scambiare opinioni, per stare insieme. Infatti i chiostri erano militarizzati e gli ingressi contingentati. E c'è stato anche il problema delle biblioteche, infatti non c'erano spazi per studiare, o meglio c'erano, ma erano pochi. Gli orari erano ridotti e spesso inagibili perché già pieni di studenti. E a tutto questo si aggiungono altre problematiche che sono preesistenti, ad esempio le tasse, che sono rimaste invariate nonostante l'emergenza Covid, e il fatto che non sia stato aggiunto nessun appello per gli studenti che si sono trovati in situazioni molto difficili in quest'ultimo periodo. Per questi motivi il gruppo ha deciso di occupare il chiostro della Legnaia, e quindi ho detto anche il chiostro di storia, dentro la sede di Festa del Perdono, e è un'auletta per appunto permettere agli studenti sia di studiare ma anche appunto di stare insieme, di incontrarsi, di avere altri spazi diversi da quelli assegnati dalle istituzioni per auto-organizzarsi. Di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano cioccolata, pericoli di strada, passaggi in corso a Novara, vada come vada, qui si rischia pure nada, la fame dentro gli occhi di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano cioccolata, pericoli di strada, passaggi in corso a Novara, vada come vada, qui si rischia pure nada, metto tutto, scendo in piazza, anculo le manette, dentro queste popolari, una casa fa per 7, in giro squadre mobili, barriera come a Napoli, nati in brutti posti, ricercati già da piccoli, già lo sai com'è, hatta de squared, il contatto fa la strada Tunisi Marseille, già lo sai com'è, Jack Armani Black, mio fratello pensa al cash, nickel tahbe in Mac, quanti rischi per la plata, rischio pure nada, vedo buste bianche e verdi, movimento per la strada, Torino hala mala, purtroppo chi sbaglia paga, la fame, la fama, la fame dentro gli occhi di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano cioccolata, pericoli di strada, passaggi in corso a Novara, vada come vada, qui si rischia pure nada, la fame dentro gli occhi di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano cioccolata, pericoli di strada, passaggi in corso a Novara, vada come vada, qui si rischia pure nada. Mio padre non è ricco, mia madre fra neanche, hanno messo al mondo un figlio con orgoglio con le palle, i tagli sulla pelle, le facce un po' più stanche, fuori tutti i miei fratelli, fuori tutti dal Ferrante, questa vita sai ti fotte, odio a morte quelle forze, te fra il tempo non aspetta, il successo è alle porte, questa vita sai ti fotte, ma la vita, ma la sorte, brindo per i miei fratelli, alla vita, alla morte, la fame dentro gli occhi di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano cioccolata, pericoli di strada, passaggi in corso Novara, vada come va, qui si rischia pure nada, la fame dentro gli occhi di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano cioccolata, pericoli di strada, passaggi in corso a Novara, vada come vada, qui si rischia pure nada. Buonasera, di nuovo ci tocca purtroppo di parlare di sgomberi, perché anche questa settimana a Milano ce ne sono stati in Barona, in Corvetto e a San Siro, dove gli zelanti politicanti hanno fotografato uno schieramento di più sbirri che persone, E queste sono le notizie, diciamo, formali. Poi ogni tanto sarebbe buono anche sentire chi nel quartiere ci abita, anche perché ogni tanto fortunatamente capita che non tutti gli sgomberi vadano a buon fine. Infatti adesso ascolteremo una storia di una famiglia che, come dicevamo, è riuscita a tenersi la casa con la determinazione di affermare: io da qui non esco e non vado per strada. Ci racconteranno infatti di più fatti. Infatti, per capire un po' cronologicamente quello che è successo, questa famiglia ha occupato. Dopo un po' MM si è presentata alla porta per sgomberarli, ma loro, nonostante avessero aperto la porta inizialmente, hanno deciso di non uscire da quella casa. Gli operai hanno cominciato a smontargli fisicamente la casa, togliendogli il water e la luce e varie cose, ma loro non sono usciti. Con l'arrivo anche di solidali accorsi a vedere quello che era successo, e grazie ad un casuale petardo hanno messo in fuga la polizia e MM, che si sono molto spaventati. Questa famiglia poi è stata visitata anche dagli assistenti sociali, nuovamente da MM, che li ha minacciati, però appunto loro hanno continuato sulla loro linea: noi per strada non ci andiamo. Quindi adesso ascolteremo questo audio. Sì, praticamente ci hanno bussato la porta il mattino presto, alle 10, siamo aperti normalmente, tranquilli, ci hanno detto: perché siete qua? E l'abbiamo spiegato che siamo un affitto, però è nero. Ci hanno detto: no, questa non è una casa privata, che ti hanno imbrugliato. Questa è la casa di MM. Continuiamo adesso 2 anni che sto cercando una casa in affitto e non riesco a trovare una casa in affitto. Nessuno vuole affittare, perché tutti noi sappiamo la situazione qui in Italia, purtroppo. 2 anni che sto cercando una casa in affitto, non vogliono affittare. Soprattutto agli stranieri, anche agli italiani, però soprattutto per gli stranieri. Già prima del Covid cercavo un appartamento in affitto, non trovavo. Figurati con il Covid. Poi è arrivato il Covid, che mi hanno messo in cassa integrazione, che non ho avuto neanche un centesimo fino ad oggi. Sempre lavorato, sempre pagato la tassa, sempre pagato tutto. E adesso non ricevo neanche una lira. Adesso cerco 1 anno e mezzo, adesso che mi ero in cassa integrazione. Non ricevo mai niente, senza lavoro. Trovare un'altra soluzione è impossibile, non c'è. Se prima c'era il lavoro, ce l'avevo dei soldi e non riuscivo a farla, figurati adesso. Speriamo breve che cambia questa situazione, che anche se sono i benefici sono aperti, però per esempio dove lavoravo io ci hanno buttato fuori non solo me, tutte le persone nuove. Hanno detto: gli ultimi le lasciamo in cassa integrazione, perché non potevano andare avanti, il lavoro calato tanto. Comunque questa situazione, che è andata le cose proprio da male a peggio, proprio così. Comunque l'ho spiegato quel giorno che sono arrivate le MM, e all'improvviso vengono a dirmi: qualche giorno mi serve la casa, ma io dove vado con una bambina? Sto pagando l'affitto, lasciami che io mi organizzo. E cosa devo fare? C'è una bambina che devo affittare comunque, è nero o non è nero, ho bisogno di un alloggio, un posto che faccio dormire la bambina. Allora ci hanno detto: e dovete andare via. No, mi lasciate qui, pago l'affitto. Finché che mi organizzo, trovo un'altra sistemazione. E non hanno voluto, è arrivata anche la polizia. Allora ci hanno chiamato la polizia, è arrivata la polizia, ci hanno... insistevano di buttarci fuori. Addirittura la polizia hanno chiamato il loro capo. Il loro capo, come loro l'hanno detto, che c'è una bambina piccola che è in mezzo, che poi l'hanno truffata, non c'è niente di portarotto o finestre, ha detto di no. Il loro capo ha detto di no. La polizia le ha detto che c'è una bambina in mezzo, ha detto: fatele farla dormire sulla banchina. Me l'ha detto in faccia il poliziotto che è arrivato. Me l'ha detto in faccia. Il nostro capo ha detto così: fai dormire la bambina sulla banchina, non mi interessa niente, dovete sgombrarli. E allora io lì non sapevo cosa dovevo fare. Se stevo, non volevo uscire. mentre che stanno, avete visto che hanno tolto il bagno, il water, il lavandino, la porta e tutto, mi stanno buttando fuori. Hanno visto che i gente sono arrivati e è cambiata le cose. Altra gente che abita qua nel quartiere. Esatto. E allora lì, mentre che invece che che mi stanno buttando fuori, è cambiata le cose, perché hanno visto che arrivate tanta gente, poi gente dal balcone che buttavano delle cose, fuoco artificiale che esplodeva, e hanno avuto paura. Con tutti i vigili, un esercito di vigili che è arrivato, la polizia locale, dove andiamo a dormire? Non volete che paghiamo l'affitto, non volete che date una possibilità qualche giorno? Ho chiesto un po' di giorni mi ne vado, così all'improvviso vado in mezzo alla strada con una bambina e dove vado? Non ho scelta, non è una cosa che l'ho scelto, è la situazione che ci obbliga. Poi, vabbè, lì come sono spaventate di gente che sono arrivati, che sono tanti, allora lì è cambiata le cose. E mi hanno detto, ti diamo una settimana, torniamo dopo una settimana, ti facciamo fuori. E sono tornati. Sono tornati il capo dell'MM, e mi ha minacciato anche che arriva con la forza, che mi butta fuori di sicuro, entro qualche giorno ritorna. È tornato, io l'ho detto, e io non lo so, la mia moglie con la bambina insistono che non vogliono uscire. Mm-hmm. Non vogliono uscire. E poi sono arrivati ancora un'altra volta, che è arrivata l'assistenza sociale, ci hanno detto, l'assistenza sociale trova una sistemazione per voi in casa famiglia, per la bambina, per la mamma, e tu no, tu arrangiati. E lì io non volevo, certamente, perché entro in casa famiglia, tipo, non lo so che cosa può succedere dopo non mollano la bambina, non me le danno la bambina finché mi danno il tempo, lo sai come funziona, come abbiamo sentito in giro. Non voglio questo. Per fortuna, sarebbe fortuna in quel caso, che era la mia residenza era cancellata, stavo facendo un'altra residenza. Per quel motivo l'assistenza sociale non possiamo completare l'operazione, perché non sono residenti a Milano. Solo questo motivo, altrimenti portavano la bambina. Mi tolgono la bambina, io muoio. Mia moglie non ha voluto aprirla neanche la porta. Era tutto un brulio, che era chiaro. Volevano soltanto farle uscire dalla casa. Affrontare che cosa? Dormire sulla panchina? Ma l'avete detto chiaro? Mm-hmm. Ce l'hanno detto. Non è che è una cosa che basta così. Mm-hmm. Comunque mia moglie non ha voluto uscire, non ha voluto neanche aprire la porta. E nel frattempo, anche in quel giorno, sono arrivate altre persone, sono rimaste con noi, e grazie ai gente che sono arrivate, veramente le cose cambia completamente. Ne stavano, non lo so, se non arrivava nessuno, lì succedeva dei disastri. this is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Diciamo sempre, questa radio serve a dare voce a chi non ce l'ha, e spesso in carcere accade questa cosa, quindi anche se ci spostiamo da Milano volevamo leggere le righe che ha scritto una compagna detenuta a Torino in merito al suo sciopero della fame. Io, Fabiola, detenuta nel carcere delle Vallette dal 31 dicembre 2020, comincio lo sciopero della fame, poiché mi vengono negati i colloqui con qualsiasi altra persona che non sia mio padre e mi sono state tolte le videochiamate con il mio compagno per un problema di contratto telefonico e mai ripristinate a problema risolto. Essendomi negati i colloqui, nonostante l'approvazione da parte del magistrato di sorveglianza Elena Massucco in data 28 aprile 2021, ho deciso che da questa mattina non mangerò più fino a quando non mi sarà garantito il diritto alla mia affettività. Ecco, questa è stata una notizia di un po' di giorni fa, ma ieri ci è giunta voce che dopo 6 giorni di sciopero della fame la direzione delle Vallette a Torino ha autorizzato a Fabiola i colloqui con il suo compagno. Quindi, noi di Malaradio siamo molto contenti e la lotta in questo caso ha pagato. E tanti auguri a Fabiola e a tutti i detenuti. You know who niggas are, stand up now, stand up now. You know who niggas are, stand up now. The way's got to be paid, see how it is fighting. Your digging does maintain, and persons all in vain, stand up. so come. La tua mente se di fronte alla mia scienza pensa elettrodi alle tempie è solo il punto di partenza. Avanzo nel deserto della psiche, vecchia volpe come Rommel. Se la tua pazzia sarà il mio premio Nobel, collabori o bagni di ghiaccio, gli albori di questo viaggio, l'alibi per cancellare tracce del tuo passaggio. Rischio, visto che stabilisco io se puoi alzarti come Lazzaro con Cristo. Mischio la Barbie dall'albenzo di azepine, quando penso sia la fine insisto. Quante dita sono questo? Non piangerò per loro che sono cadaveri in coro nel dopolavoro. Papaveri d'oro, papà si è impiccato nel circolo polo. Devoto al decoro dell'animo umano, magnanimo minimo mi immaginava ministro. Ma visto che ero diverso, io sono lerto al gioco dell'ozio, annoiato in ogni negozio. Un pozzo di scienza, un pezzo di merda, un tozzo di pane ed una coperta resta. Camici bianchi da becchere e becchi di Bunsen, medici pratici all'etere e l'anima mente fissati che ha dato il bunker. Dunque candida questa corsia, pura follia che lo isola, scrutati l'anima ed occhi tarantoli eretici sotto sti portici come Friedrich Nietzsche, se sconvolti, se dati da vortici con la Bayern che predice il tuo futuro in quattro mura, una vestale veste il camice, un luminare volta a illuminare le tue tenebre, vagliela spiegare la sua scienza tra cinghie di cuoio, vagliela spiegare perché ho scelto il buio. Oggi Ritalin TSO, ieri il manicomio, mentre l'altro ieri fumo, solo i figli del demonio, nave dei folli, spinta al largo le della ragione mostri, ma è la ragion di Stato che li assolta a fini loschi. Un folle tra le folle, più mania la mia, se dagli schermi che accarezzi c'è la tua lobotomia. Vedo il popolo proprio che manca di lobo frontale, fa rogo del male, se covo un pensiero fatale, spalviero mentale, fiero pasto cerebrale. Alzati un disturbo catatonico, alzati un bipolarismo cronico, alzati mo mutilato un medico e ci medito, alzati come un cimelio ammonito del mondo che ora evito. Alzati. No perché ci resiste. Fino a quando ci resiste, noi non lo distruggiamo. Lo facciamo diventare uno di noi, prima di ucciderlo. Rendiamo perfetto il suo cervello, prima di annientarlo. E poi, quando non resterà che dolore e amore per il grande fratello, noi ti cancelleremo dalla storia. Vorremmo ora parlarvi di un caso che è successo 2 settimane fa. A Fano un ragazzo è stato portato, dopo che si era legato al banco perché non voleva indossare la mascherina, la preside e le forze sanitarie hanno deciso di metterlo in regime di TSO. E quindi da questo fatto di cronaca che abbiamo pensato che fosse interessante parlare con gente che si occupa di antipsichiatria da almeno 15 anni, come il collettivo Arto di Pisa, e abbiamo un compagno in linea per parlare di psichiatrizzazione in età scolare. Notiamo che nella scuola viene sempre più un disciplinamento, cioè alla scuola si chiede quasi, gli stessi genitori delle volte chiedono di disciplinare il proprio figlio perché magari non è come loro vorrebbero. Chiaro che vivono sempre più disagi in una società come quella nostra, che vuole sempre più arrivismo, bisogna sempre eccellere, primeggiare, quindi è chiaro che già è una società che non è molto umana. Un ragazzo più sensibile, un bambino più sensibile, un bambino artista potrebbe estrinsecare suo carattere in una maniera diversa dagli altri, ma però noi non ci si interroga sulla relazione per esempio adulto-bambino, che a volte è sbagliata, a volte è l'adulto che interpreta male o assoggetta il bambino a certi disciplinamenti. E quindi è un po' la relazione, è un po' questa la relazione da rivedere, più che andare a cercare nel cervello del bambino la malattia. Volevo farti una domanda. Guarda, un esempio calzante che voglio fare, poi vi darò anche domande vostre se c'è bisogno, eccetera. Un esempio calzante che è proprio di questi giorni, che a me piace citare lo stesso perché sono stato anche in Palestina, in quei territori. I bambini della Striscia di Gaza sono quasi tutti malati, hanno tutti delle patologie che potremmo classificare mentali tranquillamente. E lì è dove più chiaramente si può vedere che ci sono delle cause esterne. Se non ci fosse l'occupazione, i bombardamenti, questi bambini non avrebbero, ma si parla del 70% dei bambini o che non dormono la notte o che non parlano più, mutismo, episodi di questo tipo. Quindi è l'esempio lampante che non è il cervello dei bambini malati, è una reazione a ciò che succede esternamente. Quindi dovremmo andare a esaminare questo. Invece purtroppo io vi do dei numeri, in Italia si calcola che circa 400.000 minori sono assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per disturbi mentali, quindi si parla del 3,5% della popolazione minorenne in Italia. Di questi circa 20.000, ma è difficile avere un dato preciso perché sono dati che difficilmente si possono avere, poi sono singoli servizi territoriali, si parla di circa 20.000 curati con psicofarmaci. Ora, se noi andiamo a vedere ciò che è successo negli Stati Uniti, dove si parla di 5 milioni, 6 milioni di bambini assuefatti al Ritalin, questo famoso metilfenidato, che sostanzialmente un'anfetamina data ai bambini iperattivi o disattenti, classificati come ADHD, cioè con disturbi dell'attenzione e dell'umore, e questa malattia è una malattia inventata, gli stessi inventori di questa malattia l'hanno detto loro, si chiamano Connors e Heisenberg, che hanno ritratto quello che loro avevano detto rispetto a questa patologia che c'è nel nuovo DSM come disturbo dei bambini. Poi i disturbi si dividono poi in disturbo dell'adattamento, dell'attenzione, dell'umore, della condotta, l'iperattività, la depressione, il disturbo bipolare, ce n'è una classificazione enorme. Però ecco, ci spaventa perché queste malattie sono, come spesso molti psichiatri hanno riconosciuto, sono inventate, si chiama disease mongering in inglese, sono strategie per la creazione di patologie a tavolino. Quando fanno queste riunioni, delle grandi riunioni di psichiatri mondiali, hanno di fatto inventato, c'è questo meccanismo per cui c'è una patologia per tutti sostanzialmente, tutti abbiamo qualcosa. E quindi da qui la diffusione dei psicofarmaci, di cui la Toscana è prima in Italia, ma vi assicuro che l'aumento è esponenziale di anno in anno. Abbiamo un'amica, consiglio il suo libro, Chiara Gazzola, che ha scritto diversi libri anche sui bambini, ce n'è uno proprio bello sulla psichiatrizzazione dell'infanzia, divieto d'infanzia, è uscita anche la nuova della giornata, che parla proprio anche dei numeri di quello che sta succedendo nelle scuole con queste classificazioni che vengono sempre più affidate ai nostri bambini. Ecco, bisognerebbe un po' pensarci, penso che la comunità adulta debba un po' difendere le nuove generazioni da questo rischio di patologizzazione di ogni comportamento. Volevo farti una domanda, se era possibile. Certo. Ecco, dall'inizio pandemia marzo 2020 ad oggi, come vi siete avete avuto persone che si sono rivolte a voi per bambini? Sì. È aumentato il disagio, questo disagio che parlavi dei bambini, che basta che siano un po' creativi, un po' tra virgolette diversi. C'è stato un aumento di telefonate anche per il fatto che le persone vivevano recluse in casa, quindi maggiore ansia senz'altro, anche se poi è stata molto pompata questa ansia, depressione dai media. Io ho fatto caso, in quei giorni le pubblicità, la televisione pubblicizzavano moltissimo gli ansiolitici, questo tipo di farmaci. Quindi c'è stato anche un tentativo di introdurli, un tentativo di mercato, diciamo. Però ecco, senz'altro c'è stato un aumento di… Però e questo è proprio perché gli esseri umani hanno bisogno di socialità. c'era una psichiatra che ha collaborato con noi per molto tempo, passata nell'antipsichiatria. Lei diceva: noi siamo fatti prima di tutto di quello che mangiamo, e l'alimentazione è fondamentale, e poi delle relazioni che abbiamo, perché noi siamo esseri relazionali di natura, quindi se viviamo isolati, alla fine non stiamo bene, abbiamo comunque bisogno di relazionarci con gli altri. Le relazioni nel nostro modello di società sono sfilacciate sempre di più, proprio perché è il capitalismo che distrugge anche la socialità e soprattutto divide le persone, le mette gli uni contro gli altri, c'è questo arrivismo, questo dover primeggiare sempre, no? Anche a scuola c'è questo fondamento di prendere i voti migliori, eccetera, per cui è chiaro che già questo sfalsa un po' il nostro essere. Quindi chiaramente noi abbiamo riscontrato un aumento. Ti dico, ovviamente sui bambini noi abbiamo, da noi non vengono molti, vengono dei genitori a volte a dirci: il mio figlio hanno iniziato a dargli da piccolo e adesso è nei guai, come faccio a tirarlo fuori, come faccio a toglierlo dalla psichiatria, perché poi una volta che mettono le mani addosso a una persona, purtroppo, anche per uno che prende il trattamento sanitario obbligatorio come è successo a quel ragazzo, sì, lo liberano, però la cosa resta segnata, cioè più nel Servizio Sanitario Nazionale sei segnato con una persona che ha avuto problemi mentali, è uno stigma che ti resta appiccicato per tutta la vita, qualora dovessi andare in un pronto soccorso o avessi un altro problema, viene fuori questa cosa: ah, ma questa persona però è credibile, ma sta raccontando il vero, viene osservato in una maniera diversa nel momento in cui hai addosso queste stigma. Ah, perché, non lo sapevo, perché è a vita quando ti segnano che hai fatto TSO? Certo. Tanto più adesso che c'è che tutto è digitalizzato, chiaramente tutto viene fuori nel computer, quando succede un episodio che ti trovano un'altra volta, in qualunque episodio di strada, e viene fuori, ma questa persona ha avuto già dei precedenti, quindi è più facile rientrare nel girone. Non solo, dopo un trattamento sanitario obbligatorio non è che si viene lasciati stare, devi andare a fare le visite al centro di igiene mentale territoriale, ti osservano, ci sono psichiatri e spesso, il più delle volte, ti vengono dati dei farmaci, che se tu rifiuti torna un TSO, riparte un trattamento sanitario obbligatorio, perché una delle cose che fa scattare il TSO è proprio il rifiuto delle cure, quindi potresti ritornare dentro addirittura nel reparto psichiatrico. Ce ne sono 320 in Italia, sono reparti negli ospedali dove si lega ancora. Guardate, noi sabato prossimo faremo un presidio proprio per una persona che a Livorno è rimasta legata 7 giorni al letto ed è morta, forse ricorderete anche il nostro Giovanni, il maestro. Ah sì, sì, quello di è stato dove... 72 ore legato al letto ed è morto, sì. Per cui insomma queste cose non dovrebbero più accadere. Esatto. Noi ricordiamo anche Elena Casetto, una poetessa di 19 anni morta 2 anni fa nell'ospedale di Bergamo, bruciata, legata al letto, aveva preso fuoco, non c'era nessuno, lei era legata, non ha potuto scappare, morta, bruciata viva. Ma sono cose che sono per questo che noi abbiamo fatto un collettivo antipsichiatrico, sembra brutto dire anti, però caspita, la psichiatria è l'unica branca medica, come vi dicevo, che può obbligare una persona a essere legata, a prendere farmaci contro la sua volontà. Non siamo contrari ai psicofarmaci, però insomma dovrebbe prima di tutto essere informato. E non, se uno dice: ma a me mi sento che mi fa male, dottore, una settimana che li prendo, non dormo più, oppure sono super eccitato, oppure dormo sempre, insomma deve essere ascoltato. Notiamo che nei CIM l'ascolto è limitato a pochi minuti e alla ricetta che viene data per prendere il farmaco. Beh, Antonucci lo insegnava, no? Antonucci lo diceva nei suoi libri, no? Sull'antipsicatria, questa cosa qui, no? Raccontava Antonucci quando parlava del sistema pre-Basaglia, come, no? Come? Certo, parlava del sistema pre-Basaglia, quando lui aveva iniziato con Basaglia a lavorare e trovava la signora che tirava le testate contro il muro e gli dava e il capo psichiatra gli dava i psicofarmaci, lui invece ha incominciato, come dicevi prima tu, ad ascoltare, no? Perché voi vi rifate un po' alla scuola Basaglia, Antonucci, no? Immagino. Sì, certo, Basaglia è stata una grande rivoluzione, anche Antonucci è stato, anche l'abbiamo potuta invitare, conoscere bene, perché è morto da qualche anno, però abbiamo fatto anche dei convegni con lui. Lui è famoso anche per aver liberato le 32 pericolose donne di Imola che erano legate ai letti praticamente sempre, considerate pericolose, le ha liberate una per una con l'ascolto, perdendosi giornate, ore, però le ha liberate una per una, dimostrando che la pericolosità era data dal fatto che erano legate. Quando un uomo è in contenzione, è rinchiuso in una cella ore e ore, anche gli animali insomma impazziscono rinchiusi in spazi ristretti. Ma poi voi immaginate, se vedeste un cane legato alle quattro zampe tutto il giorno, che non può neanche grattarsi perché ha le quattro zampe legate, io penso che qualunque persona si intenerirebbe, avrebbe pietà. Ecco, fatto un uomo c'è meno pietà, perché è matto, perché è pericoloso. Sì, calma, vediamo le cause, cosa gli è successo, cerchiamo di capirlo. Poi ci può essere il momento di rabbia, capisco, poi se uno aggredisce le persone, beh, c'è comunque il penale, non è che non ci sia, cioè, se uno lesiona, ci sono i reati di lesioni, lesioni gravi, eccetera, eccetera, ma e qui si punisce l'intenzione. Oppure si punisce, come nel caso del ragazzo, un'opinione portata avanti in una maniera magari inappropriata, però insomma incatenarsi a un banco è una protesta che si può fare, no? Come io sciopero della fame, per ora non è considerato suicidio, a te per ora siete sì, può essere considerato tentativo di suicidio e potrebbe partire un TSO. Succedono anche queste cose. Prima, prima di salutare, prima di salutarci, ci puoi dare i contatti per raggiungervi come collettivo Arto? Sì, guarda, innanzitutto vi lascio il numero di telefono che cerchiamo di tenere sempre acceso. Chiaramente siamo volontari, si fa quello che si può, è durissimo rispondere al telefono perché chiamano persone veramente in situazioni di tutti i tipi e ce ne capitano di tutti i colori. Però cerchiamo come possiamo di dare un aiuto legale, come dicevo, conosciamo avvocati, anche magari psicologi, psicoterapeuti, è brutto avvalersi di professionisti, ma qualche volta tocca farlo per liberare le persone dalla psichiatria. Per cui se c'è bisogno lascio il numero di telefono che è 335 700 26 69. Vi ripeto, siamo pochi volontari, facciamo quello che possiamo, però insomma consigli ne possiamo dare, anche andare in reparto a volte a trovare le persone in TSO lo facciamo, si può farlo come amici. Vi lascio anche un blog, un sito che è www.artopisa, scritto Artaud, perché Antonin Artaud è uno che ha subito diversi elettroshock nei primi 1900, un artista francese. artaudpisa.noblogs.org. Comunque noblogs.org. Comunque basta anche digitare antipsichiatria Pisa sulla. Perfetto, ti ringraziamo molto per la tua testimonianza e grazie per il lavoro che fate come collettivo Arto. Un saluto da tutta Mala Radio. Grazie a voi anche per l'ascolto, perché è importante. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, buona fortuna a tutti. Ciao. E eccoci a Mala Radio. Allora, amiche e amici di Mala Radio, questa sera abbiamo avuto non pochi problemi tecnici, forse un po' più del solito. Ah, il bello della diretta. Sì, questo anche è diventato il nostro motto. Bello, perché alla fine riusciamo sempre a riparare, visto che siamo una radio autogestita e abbiamo i mezzi che abbiamo. Abbiamo i mezzi che abbiamo, però abbiamo anche sì, no, ci tenevamo sì a dirvi, vabbè, che sempre carichiamo i podcast delle puntate. Adesso vi ridiciamo un po' tutti i nostri contatti. Allora, la nostra mail a cui potete scriverci se volete mandarci informazioni, racconti, contributi, ma anche se volete prendere parte a Mala Radio, perché abbiamo uno streaming che funziona H24, sono già diverse le trasmissioni che stanno nascendo sul nostro stream, e quindi per scriverci malaradio@autistici.org. E tutti i podcast delle puntate registrate le trovate sul sito malaradio.noblogs.org. Sul sito c'è anche un elenco di iniziative, sicuramente non esaustivo, la maggior parte ovviamente sono iniziative che si svolgono a Milano, ma se ci sono insomma occasioni o iniziative importanti, ci sono anche quelle di altre città. E come abbiamo raccontato un po' di volte, ma la radio nasce anche e soprattutto per cercare di raccogliere le voci che non risuonano, vabbè, ovviamente nei media ufficiali, ma anche che fanno fatica di incontrarsi, e quindi per questa puntata che ha avuto questi vari problemi tecnici, però poi sul nostro sito troverete delle voci che avevamo raccolto insomma nelle piazze, nelle strade, nelle varie situazioni che ci sono state, presidi, sgomberi. E adesso, per darci un po' di forza dopo tutti questi problemi tecnici, parliamo di una buona notizia, perché a Milano c'è una nuova occupazione, sentiamo una compagna che è là. Esatto. Siamo già collegate con lei. Ciao, ci senti? Ciao. Ciao. Sì, vi sento. Allora, esatto, questa nuova occupazione, non so se ci vuoi raccontare un po' com'è nata, che cosa state facendo. Alla fine è già quasi una settimana, no, che avete occupato? Sì, esatto, domani è una settimana che abbiamo preso il nuovo spazio e la cosa ci sorprende abbastanza positivamente, visto che gli ultimi due spazi che abbiamo tentato di prendere sono durati 3 giorni e niente, per il momento non abbiamo iniziative in programma. Lo spazio rimane comunque aperto a tutti gli amici, compagni solidali che vogliono passare. Niente, appunto, è la terza occupazione che tentiamo di fare. Ormai è un anno che proviamo a prenderci uno spazio. La nostra esigenza nasce non solo dal fatto di voler vivere insieme, avere uno stile di vita che ci permetta di condividere una quotidianità tutti insieme tra di noi, ma è soprattutto l'obiettivo è quello di avere uno spazio dove appunto possiamo organizzarci, fare iniziative, proporre discussioni e dare anche la possibilità a chiunque altro voglia appunto proporre qualcosa da fare di poterlo fare. Quindi non è solo uno spazio abitativo, ma proprio anche di cioè che può diventare laboratoriale o appunto per fare incontrare e incrociare lotte, immagino, come avevate anche tentato nelle passate iniziative anche che avete organizzato, perché visto che è stato difficile quest'anno avere uno spazio, comunque non vi siete fermati, avete organizzato anche tante iniziative, no? Sì, nonostante in questi mesi appunto l'assenza di uno spazio ci potesse creare non poche difficoltà nel provare a proporre qualcosa, siamo riusciti comunque a proporre delle iniziative in questa città grazie anche agli spazi occupati che già esistono a Milano, che ci hanno dato ospitalità. Niente, la prima iniziativa con cui abbiamo aperto in questo spazio è stata quella di sabato scorso, per raccontare un po' della storia della Valsusa e provare a ricollegarsi anche lì al discorso delle occupazioni. Niente. Invece rispetto ai passati tentativi, so che appunto avevate occupato un asilo che si chiamava Galipetto, giusto? Che non so se ci vuoi raccontare cosa vuol dire questo nome, se come mai avevate deciso di mantenere questo nome. Sì, il primo tentativo che abbiamo fatto era appunto un asilo in abbandono in Via Verro. Il cui nome era appunto Galipet, che in francese significa sia capriole che marachelle, e il nome ci sembrava simpatico, quindi l'abbiamo preso un po' come nostro. Ora probabilmente può anche essere che cambieremo il nostro nome, ma comunque non è il dettaglio più importante che vogliamo definire per il momento. La seconda occupazione invece la prima era appunto in una zona residenziale, mentre la seconda occupazione in Viale dei Mille, in una zona un pochino più centrale. Entrambe hanno creato parecchio scalpore a livello sia mediatico che nel contesto del vicinato. E E invece a livello, appunto, visto che parlavi dello scalpore, dell'incontro, delle persone, che riscontri avete avuto dalle persone, appunto, che hanno attraversato lo spazio questa settimana? Allora, il nuovo spazio si trova in una zona un pochino più periferica industriale, siamo in zona Forlanini Mecenate, e vicino a noi ci sono degli studi RAI, quindi il via vai principale di persone che osserviamo durante la giornata sono appunto di gente che va e viene dal lavoro. Ci sono comunque abitanti, persone che vivono qui, e per il momento, a parte qualche caso isolato, sono stati tutti, non dico solidali, però alcuni sì, altri semplicemente curiosi di sapere quali siano le nostre intenzioni appunto in questo luogo. Mi sembra uno sviluppo interessante visto quello che era successo, no, durante la prima occupazione, che addirittura era stato fatto dagli abitanti, era stato fatto addirittura un presidio davanti al vostro posto, mi ricordo. E però mi ricordo anche che un dato importante era che invece poi queste persone nei giorni successivi si erano presentate anche al posto e, parlando invece singolarmente, si erano trovati anche dei punti di incontro, quindi mi sembrava un dato interessante il fatto che poi incontrandosi e soprattutto vivendosi un'esperienza comune come quella della pandemia in questo periodo, invece delle cose ce le si vive insieme, no? Nonostante le differenze di vita o sì, di scelte. Sì, nel primo posto appunto abbiamo avuto una sera, questo sit-in di persone che non ci volevano nelle loro vie, nel loro quartiere, e il fatto di aver aperto un'occupazione con una TAZ in piena pandemia forse può aver peggiorato la situazione, ma appunto, come hai detto, essendo comunque vicino a una zona di un quartiere popolare, anche nella prima occupazione delle persone solidali e simpatizzanti le abbiamo incontrate. E comunque, vabbè, non è bastato a permetterci di rimanere dove eravamo. Esatto. E comunque, esatto, dopo vari tentativi, riuscire a portare a termine di nuovo questa occupazione che speriamo durerà ancora tanto. A questo proposito volevo chiedervi anche, è vero che ovviamente preparati dalle esperienze passate, insomma, immagino che anch'io non mi sarei preparata delle iniziative sapendo che poi mi avrebbero sgomberato dopo poco, però immagino appunto che in futuro invece ne farete altre, e volevo chiederti dove si possono trovare queste iniziative, se avete dei canali di comunicazione o vanno più in certo modo, appunto la differenza rispetto alle due occupazioni precedenti è il fatto che abbiamo deciso di non passare direttamente dai social, ma appunto comunichiamo tramite passaparola e messaggi. E comunque le nostre iniziative in futuro probabilmente saranno pubbliche anche a livello di social network, e sulla nostra pagina di Facebook si potranno trovare gli eventi, e comunque ci occuperemo di far girare più messaggi possibili per far sapere a chiunque voglia passare le nostre quali iniziative metteremo in campo, ecco. Sicuramente anche su Mala Radio lo diremo. Esatto, anzi fatecele avere, così noi sicuramente le passeremo. Sempre che si senta che vadano tutte le cose. Sempre che non abbiamo altri problemi tecnici, ma non ne avremo, siamo sicuri. E niente, quindi io volevo ricordare che voi vi trovate in via Malipiero, giusto? Perché prima l'ho detto sbagliata. Via Malipiero, sì. Via Malipiero 4, in zona Mecenate. Quindi invitiamo tutti e tutte, con attrezzi e voglia di fare, voglia di proporre, voglia di conoscere, a venirvi a trovare, giusto? Esattamente. Esatto. Sì, chiunque voglia passare, la nostra porta è aperta, insomma. Va bene, grazie mille, ti ringraziamo. Grazie a voi. A presto, vi verremo a trovare anche noi. A presto, buona forza, serata. Forza, grazie che lo state difendendo. Torniamo in diretta con Mala Radio. Ma siamo in diretta? Siamo in diretta, pare che ora si sente. Si sente. Ringraziamo gli ascoltatori, gli ascoltatrici, le ascoltatrici che ci hanno fidati e fidate, che insomma ci hanno sopportato e supportato. E ci hanno anche segnalato. Ci hanno segnalato. Di sicuro, di non, hanno segnalato ad altre di non ascoltare la radio. Vabbè, scusate per i problemi. È una radio muta. Era una radio muta, meno male che c'era un po' di... contributi audio, quindi almeno un po' di roba se sentite le canzoni anche. Questi, allora, sono i 22 e 26 in diretta da Milano. Questi erano i Wretched con Libero e Selvaggio. Abbiamo messo questo brano storico della scena punk milanese perché appunto andiamo a parlare ora di un'autoproduzione, più nello specifico di un documentario che sarà presentato per la prima volta domani sera all'Anfiteatro Martesana dalle 20:30 in poi. Come si chiama? Uragano negli occhi! Uragano negli occhi, uno sguardo sulla Milano hardcore punk dal 2015 al 2020, e quindi in questo documentario, insomma, parlano vari gruppi della scena milanese, ma anche varie personalità, persone, gruppi non solo di Milano, tutti i vari collettivi che c'erano all'epoca e che sopravvivono, alcuni sono morti come Lucta, Malamì, eccetera. E niente, quindi ci andiamo a sentire il contributo audio di uno dei compagni che ha realizzato Uragano negli occhi. Ricordiamo che Uragano negli occhi non è solo un documentario, ma è composto anche da un paio di fanzine cartacee, una con tutti i volantini dei concerti che sono stati seguiti dai ragazzi e le ragazze che hanno fatto questa produzione qui, e un altro invece ci sono le foto dei concerti. La produzione è F.O.A. Boccaccio. No, per il nome dei lavori, 003. Che cos'è DI? Cosa vuol dire la sigla? Perché uno può non sapere. DIY. Ah, DIY, DIY. Do it yourself, fai da te. Come noi ci facciamo la radio, fai da te, che ogni tanto non esce. Ok. Ok, ci sentiamo questo contributo. Ciao a tutti e a tutte. Per prima cosa ci teniamo a ringraziare gli amici e le amiche di Malaradio Milano per lo spazio che ci viene concesso per rappresentare Uragano negli occhi e nello specifico la prima iniziativa pubblica di presentazione di questa autoproduzione firmata F.O.A. Boccaccio 003 di Monza. Per chi non lo conoscesse, questo lavoro è appunto uno sguardo sulla Milano hardcore punk degli ultimi 5 anni e quindi prende in esame il lustro compreso tra il 2015 e il 2020. È un'autoproduzione composta da diverse cose: c'è un film di 50 minuti, c'è una traccia video di aneddoti e storie, e sempre all'interno della bustona che raccoglie tutti questi supporti ci sono 2 fanzine cartacee, la prima dedicata ai flyer dei concerti, la seconda invece dedicata alle fotografie scattate proprio durante le iniziative, i concerti, le TAZ di questi 5 anni. Questo lavoro vede la luce dopo molto tempo. Sicuramente ci sarebbe piaciuto presentarlo qualche mese fa, quando il lavoro era pronto, sul finire del 2020, ma ovvi motivi ci hanno indotto a ritardare questa presentazione che oggi ci sembra potersi svolgere in una dimensione che permetta una buona partecipazione e quindi la buona riuscita dell'iniziativa stessa. La scelta di organizzare questa prima presentazione, che si terrà venerdì 21 maggio a Milano, è legata ovviamente al fatto che oggetto di tutto questo lavoro è proprio la scena, la comunità, il mondo DIY metropolitano, ma che ha baricentro proprio sulla città di Milano. Per cui, nonostante la F.O.A. Boccaccio sia una realtà monzese, abbiamo ritenuto doveroso organizzare questa prima iniziativa di presentazione proprio su Milano, che è la città che ospita la maggior parte dei protagonisti, delle protagoniste, delle situazioni che trovano spazio all'interno del racconto di Uragano negli occhi. Perché proprio all'Anfiteatro Martesana? Perché ci tenevamo al fatto che questa prima presentazione avesse luogo in una piazza, quindi in un luogo pubblico che ci prendiamo tutti insieme quel giorno e che quindi replica in qualche misura quelle pratiche di riappropriazione, di liberazione temporanea che più volte abbiamo messo in atto insieme alle persone con cui abbiamo costruito tutto il racconto di Uragano negli occhi. Per di più è un luogo estremamente adatto alle proiezioni e di conseguenza, nell'auspicio che questa iniziativa si terrà con la partecipazione di parecchia gente, ci sembrava proprio che questa fosse una location perfetta per ospitare questo evento. Come funzionerà la giornata di venerdì 21 maggio? Allora, innanzitutto, per chi volesse dare una mano all'organizzazione dell'iniziativa, l'appuntamento è alle 18.30 proprio in via Agordat a Milano presso l'anfiteatro. Lì verranno allestite ovviamente quelle strutture basilari necessarie alla proiezione. Dopodiché alle 20.30, come dice il volantino, appuntamento pubblico per chi volesse seguire l'iniziativa. Dopo una breve introduzione in cui ci ritaglieremo uno spazio rapido per introdurre a quello che è stato il percorso di autoproduzione, ci sarà la proiezione del documentario di circa 50 minuti e a seguire ci aspettiamo che si sviluppi in maniera spontanea un bel dibattito in cui raccogliere spunti, critiche, punti di vista su quello che abbiamo cercato di rappresentare. Ovviamente sono quindi benvenuti interventi, riflessioni che permettano a questa comunità DIY di confrontarsi su se stessa, raccogliere stimoli anche in questo frangente molto particolare, magari proprio per rilanciarsi e porre uno sguardo a quelle che possono essere le future iniziative comuni. Quella di venerdì 21 maggio è la prima proiezione assoluta di Uragano negli occhi, ma abbiamo già in calendario svariati altri appuntamenti di presentazione, il primo dei quali si terrà domenica 23 maggio presso la FO Boccaccio di Monza, per cui se qualcuno si perderà l'iniziativa del 21 potrà rapidamente recuperare la cosa venendo a Monza il 23. Dopodiché stiamo costruendo un calendario di presentazioni molto molto ampio, abbiamo ricevuto richieste di iniziative da nord a sud e questa cosa indubbiamente ci fa molto piacere. Speriamo che altre richieste arrivino, chi volesse farlo ovviamente ci può contattare e noi siamo ultra disponibili a muoverci per presentare questo lavoro, e non soltanto in Italia, visto che allo stato attuale, oltre che da tante città italiane, stanno arrivando richieste di presentazioni anche all'estero. Questo in virtù del fatto che il documentario e anche la parte della fanzine cartacea è tradotta in lingua inglese. Ovviamente nell'ambito di tutte queste iniziative di presentazione, a partire da quella di venerdì a Milano, sarà possibile acquistare la copia di Uragano negli occhi, il pack completo, che prevede appunto la busta serigrafata a mano, la USB card con le tracce video e la coppia di fanzine cartacee su flyer e fotografie. Non ci resta quindi che ringraziare nuovamente gli amici e le amiche di Malaradio Milano, dando appuntamento a tutti coloro che vorranno curiosare insomma su quel che è Uragano negli occhi a venerdì 21 maggio presso l'anfiteatro Martesana di Milano e alle successive iniziative calendarizzate da qui all'estate. Grazie mille e ci vediamo venerdì. Let's go. questi erano i Filthy Generation, un altro gruppo che farà parte appunto del documentario Uragano negli occhi. Ma a proposito di Uragano negli occhi, che ci sarà domani, ora lasciamo lo spazio alla sopravvivenza delle iniziative che ci saranno a Milano. Sì, infatti, allora, domani ci sarà la prima di Uragano negli occhi, come dicevamo prima, alle 20.30 all'Anfiteatro Martesana. Poi a Monza, il 22 maggio, alle ore 15.30, in Largo Mazzini, angolo via Italia, iniziativa in solidarietà con la Palestina, contro nuovi e vecchi stati. Il 22 maggio a Saronno, in Piazza Libertà, alle ore 17, presidio al fianco del popolo palestinese. Sempre il 22 maggio a Milano, ore 15, Parco Solari, Antifa Street Rap, concerto con RWA, Tusco e Pavia Male, 4088, Contraboy e altri. A seguire poi DJ 7. Poi ancora il 22, sempre a Milano, Piazza Costantino, presidio contro la cementificazione alle ore 14. Sempre ancora un'altra volta sabato 22 a Milano, presidio ore 16 in Piazza Cairoli, manifestazione mondiale in appoggio alla Colombia. Continuiamo con questo sabato 22 che non ci lascia. Benissimo questo sabato 22. Sopravviveremo a sabato 22. Alle ore 15 a Milano in Piazza Duomo, presidio in solidarietà con la Palestina. Si vede che è zona gialla, eh? Domenica 23 a Milano, ancora in Baronata, riapre la ludoteca Viale Faenza 12/17. Benefit lotta per la casa, dalle ore 16. Domenica 23 a Milano, tavola rotonda sul diritto all'abitare a piano terra, alle ore 15 in via Confalonieri 3. Domenica 23, presidio ad Esio contro la Pedemontana, alle ore 10 in via Michelini. E sempre domenica 23 ci sarà in via Gola, da ora di pranzo, appunto un pranzo sociale, poi ci sarà l'assemblea pubblica su sgomberi, riqualificazione, assegnazione, a seguire il calcio in strada e poi la proiezione di un film. Ma sai cosa c'è anche sabato, domenica 23? C'è un ragazzo negli occhi in fuoco a Boccaccio alle 20.30. Poi settimana prossima, domenica 30, giornata di sport popolare dalle 14 al fuoco a Boccaccio a Monza e sempre domenica 30 dalle 15 nell'occupazione di Ci Siamo di via Iglesias 27, concerti, cena, benefit, spese processuali. Beh, ci siamo più o meno, ci siamo Iglesias domenica prossima, in questa puntata frastagliata da problemi tecnici a causa di DJ Talk. Niente, siamo quasi arrivati alla conclusione. All'inizio forse non avete sentito, avrete sentito la canzone però di Franco Battiato, Cerco un centro di gravità permanente. Avevamo detto la motivazione per la quale avevamo deciso di mandarla in diretta, ma ora ce lo ridice. Perché il 18 maggio il maestro Franco Battiato ci ha lasciato, quindi dopo, 20 giorni dopo un'altra grande milva adesso con cui lui ha collaborato, è morto anche lui il 18 maggio. E quindi niente, chiudiamo questa puntata malandata di Mala Radio con L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato, e ricordiamo a tutti e tutte che comunque, nonostante i problemi tecnici, in una maniera o nell'altra metteremo i podcast delle interviste che abbiamo provato a fare oggi in diretta, quindi con i compagni e le compagne della Nuova Occupazione a Milano, del collettivo Artò, e poi poi i contributi audio sugli sgomberi di Uragano negli occhi, le interviste che ci sono state al presidio per la Palestina di giovedì scorso. Ricordiamo il numero di telefono, che è 351 91 82 889, la mail malaradio@autistici.org, il nostro blog malaradio.noblogs.org. Stiamo anche diventando social e ci troverete su quasi tutti i nuovi social tipo Telegram, faccia ciuf, Netflix. E niente, ci sentiamo L'era del cinghiale bianco con Franco Battiato.